America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. I'm looking forward to a long campaign. This is a tough process, you know that. And that's the way it ought to be. We're selecting the President of the United States. Ennesimo dibattito repubblicano, questa volta a Jacksonville in Florida. La partita si sta scaldando. Mitt Romney è riuscito a recuperare dopo il dibattito chiave in cui ha sferrato un attacco contro Newt Gingrich lunedì scorso a Tampa, da dove vi ho parlato. Ma non vorrei continuare a parlare di questi dibattiti che poi diventano ripetitivi. Torneremo a parlare di elezioni la settimana prossima, in addirittura d'arrivo sul voto della Florida. Oggi invece vorrei parlarvi d'altro. La giornata della Shoah, la nostra radio ha dedicato una buona parte della trasmissione a eventi, a ricorrenze che si sono tenute in Italia. Ebbene, ce n'è una che si è tenuta qui a New York, molto importante, una ricorrenza della Shoah al nostro Consolato Generale d'Italia. E qui questa mattina una gran quantità di gente, una folla, anche dei passanti, devo dire che arrivano e spontaneamente si fermano, sono andati a questi microfoni che sono stati sistemati dal nostro Consolato Generale sotto il coordinamento di Natalia Quintavalle, la nostra console generale qui a New York, per un momento devo dire molto toccante, molto emozionante. Fra poco toccherà anche a me andare ai microfoni e fare che cosa? Beh, leggere da una lista di persone che sono cadute, sono state uccise nei campi di concentramento, i nomi di queste persone. E dunque il nostro consolato, facendo quello che fa, porta per le strade di New York, l'unico tra l'altro a proporre un'iniziativa di questo genere, e porta per le strade di New York, vi dicevo, questo messaggio, che è un messaggio non soltanto per il ricordo, ma è un messaggio contro la discriminazione, è un messaggio contro coloro che continuano a ostinarsi a vivere nel mondo ristretto all'interno di un paraocchi che ormai non ha più ragione di esistere nel mondo della globalizzazione. Vi ho fatto ascoltare la colonna sonora di Schindler's List, un film che è dedicato appunto alla tragedia della deportazione, è dedicato ai tentativi di Schindler di far sì che una gran quantità di ebrei condannati a morte alla deportazione potessero evitare questo loro destino. Un film che ha vinto il premio Oscar e un film che ci riporta a quello di cui abbiamo parlato ieri, cioè al ruolo degli Oscar, come vengono scelti questi Oscar, perché un film prevale sull'altro. Beh, devo dire che nella storia abbiamo visto dei film che davvero hanno contribuito a un'apertura della nostra testa, a ravvivare nelle nostre coscienze problematiche che magari qualcuno tende nel tempo a porre in un canto della nostra memoria. E dunque vorrei tornare a parlare di film, di premi Oscar, dei film che sono in lizza quest'anno. Lo faccio di nuovo con Daniela Roveda, che è con noi in linea da Los Angeles. Buongiorno Daniela. Buongiorno Mario. Ecco Daniela, innanzitutto vorrei chiederti come nasce la decisione di assegnare un premio Oscar. I membri dell'Academy sono registi, produttori, sceneggiatori, oppure costumisti, direttori artistici, direttore della fotografia, che hanno vinto in passato o vengono considerati dei grandi personaggi nel loro campo. Per ciascuna categoria votano, quindi i costumisti votano per i migliori costumi, soltanto per il miglior film ogni membro dell'Academy ha diritto a votare. Daniela, tu sei a Hollywood, sei lì da anni, sei a Los Angeles, insomma conosci l'ambiente, conosci il mondo. La domanda è, ma c'è il trucco? Decisamente equivale a una campagna elettorale. E il voto si compra con queste campagne di marketing e di pressioni molto pesanti sui membri dell'Academy affinché votino per un certo film o un certo attore. Ed è anche vero che molti membri dell'Academy, ormai vecchi o disinteressati, non guardano neppure più i film e incaricano qualcun altro di votare per loro. Mi ricordo che Sophia Loren ammise una volta che erano i suoi figli a votare per lei. Parliamo un po' di business. In questo contesto i film continuano ovviamente a guadagnare guadagnare, ma c'è una piccola rivoluzione in corso, ci sono dei problemi di pirateria, ci sono dei problemi di distribuzione, Hollywood è impegnata in prima linea nella difesa dei suoi diritti, c'è uno scontro diretto con le grandi case della nuova frontiera tecnologica, Google, Amazon, eccetera, e questo conflitto lo abbiamo visto tradotto in pratica in un progetto di legge che si chiama SOPA, che è un progetto di legge che mira a proteggere appunto i diritti d'autore dalla pirateria, che è stato contrastato proprio dai grandi giganti ricchissimi, dai Google, dagli Amazon e dagli altri grandi produttori, Microsoft, diciamo, dagli altri grandi protagonisti dell'era di Internet. Ecco, come sta vivendo Hollywood questo conflitto? È un momento di grande tensione perché si sta giocando il futuro dell'industria hollywoodiana alla ricerca di nuove forme di introito nell'era dell'internet e ovviamente le grandi majors vengono danneggiate continuamente dalla pirateria online e stanno cercando di proteggere i propri interessi e garantire la continuazione di un modello che ha funzionato molto bene per decenni e decenni. Daniela, qual è secondo te però il confine tra la libertà di espressione e la tutela del copyright? Il confine deve essere il frutto di un compromesso. Entrambi i settori hanno le loro ragioni, la proprietà intellettuale deve essere tutelata fino a un certo punto, ma senza arrivare a degli estremi. Rupert Murdoch è intervenuto in materia, ha detto che Google è il capo di tutti i pirati, che non solo mette diciamo a disposizione i film, ma in più ci guadagna con la pubblicità e per proteggersi paga milioni e milioni di dollari a Washington, ai lobbisti. È vero? Quello che dice Murdoch non è sbagliato, ma certamente il suo tono non porta al compromesso e potrebbe finire ad essere controproducente. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @ Mario Platero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Visto che abbiamo parlato di queste celebrazioni della Shoah, vi propongo una interpretazione di un grandissimo cantante americano, Ari Belafonte, Ava Nagila. Havana ranenna, Havana ranenna, ve mesmacha. Uru, uru, ruachim, ruachim alev sameya, ruachim alev sameya, ruachim alev sameya, ruachim alev sameya, ruachim, ruachim, belev Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going. America 24.